Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo rientrati noi di 451 Frammenti Sonori e salutiamo anche il caro compagno di tante avventure radiofoniche notturne, Jerry, che ci ha anche aiutato tecnicamente stasera. Non entriamo nei dettagli perché sembra un po' troppo trash, ma no, come ma tanto sono anni che qua lottiamo con i dettagli tecnici, con la tecnica. Bene, ovviamente. Bravo. Grazie. Buona serata a tutti gli ascoltatori. 451 Frammenti Sonori dunque riparte, finalmente rientriamo insieme. Max Macchia ed Eliseo Scarpa, è il solito teatrino, bravo. il teatrino, come si può dire? C'era un teatrino una volta, sì, si chiamava il Teatro dell'Elfo, ma quello era a Milano. Sì, ma credo che vabbè, roba vecchia, basta, queste robe qua, arcaiche ormai. Vabbè, comunque 451 rientra a doppia voce e chiaramente vi ricordiamo che siamo su Radio Città del Capo, che non si sa mai. Ma perché sì, perché poi anche vabbè, a me un po', ecco, verità, però poi insomma, sai, non si sa bene il motivo. Ma insomma, adesso con forse tutto perché noi qua forse noi che siamo un po' ridere qua, però non lo so. Ma potremmo dire molte cose, ma evitiamo, anche perché ma siamo sotto elezioni. Tipo coso lì, come chi? Si chiama lì? Chi? L'ex sindaco di Milano Pisapia, no l'ex la Moratti, ma no, Albertini che ha detto su Formigoni, potrei dire tante cose, cosa fai come lui? Sì, potrei dire, ma cosa potresti potrei dire? Ma si sa tanto, è tutto palese, basta aprire gli occhi, cari amici telespettatori e radioascoltatori. Telespettatore lo diceva quell'altro personaggio, ma sì, di Bongiorno, perché siamo un po' tutti telespettatori poi in realtà, della realtà insomma. Quello sì. Vabbè, comunque è tutto molto televisivo, anche se sembra reale, poi in realtà è tutto filtrato. Va bene, comunque dopo questa bella presentazione un po' deviata, forse deviata perché siamo deviati noi, e entriamo nel merito di questa puntata di 451 Frammenti Sonori. In questo gelo di gennaio noi abbiamo voluto lanciarci su una materia che alle volte insomma abbiamo anche affrontato in passato, perché non è che ci siamo mai distanziati da un certo tipo di musica, in particolare la disco, la fatidica disco, e abbiamo pensato di giocare con manipolazioni e decostruzioni legate appunto alla disco e non solo, intitolandola Disco No Disco questa puntata. E dunque faremo un viaggio all'interno di manipolazioni recenti, più vicine, attuali, anche maggiormente passate, dunque qualcosa anche di qualche annetto fa, che lavora sia su una manipolazione e un utilizzo di certi frammenti disco per costruire brani abbastanza deliranti, e sia proprio anche all'interno della materia disco in un'accezione, in una diramazione più legata agli anni zero, ma non solo, perché affronteremo anche territori figli degli anni 80 e gli anni 90, dunque ci sarà insomma parecchia carne al fuoco. Come al solito iniziamo fondamentalmente così, dichiarando una sorta di guerra mediatica, anche per questo facevo un po' il giochino, ma non mi hai retto, non mi hai fatto la spalla. Perché sto un po' rinco oggi. Vabbè, succede. Vabbè. In realtà sto inventando tutto adesso, recuperando il mio delirio di prima. E Helter Stupid, disco meraviglioso dei Negative Land, tutto quello che hanno fatto è oro colato, sul serio. Soprattutto se volete così una chicca, recuperatevi U2. È vero, due, ma l'abbiamo messo forse in passato qualcosa, può essere, però non l'ho trovato sul blog, magari lo rimanderemo così, magari lo registriamo. Bravo. Anche sul blog, quel disco che fece arrabbiare tanto Bono Vox o Bombo Vox come lo chiama qualcheduno, perché fu venduto come un disco, insomma riuscirono addirittura a distribuirlo non in maniera diffusissima, però insomma riuscendo anche a arrivare ai vari negozi di dischi, e quindi lo facevano passare come disco degli U2. Potete immaginare una laboria, la spocchia di Bono Vox, cosa è successo, denunce su denunce. Poi tra l'altro lui si fa spesso paladino insomma delle libertà di espressione all'anima, diciamo. Infatti poi si è anche ricreduto della cosa, non avevo capito chi erano, che era un gruppo di situazionisti, filo residenziani, vabbè, ma a parte insomma questa cosa, hanno fatto decisamente bene Negative Land, così si scoprono anche gli altarini insomma di quel mito rock che insomma tanta munnezza ha creato, e in effetti poi di fatto molte informazioni si sono anche proprio decisamente schierate contro quella mitologia rock, intendiamoci, è il mito del rock qua che viene colpito. In questo caso, ad esempio, Helter Skelter dei The Beatles, che già comunque superavano a pie pari il discorso rock con veramente un'esplosione fantastica di creatività, ma di qua, insomma, al mito anche di Helter Skelter, poi con tutta la faccenda anche legata a Charles Manson, collegandola con una disco, con un pezzo anche decisamente famoso degli anni 70, appunto Disco Music, e mettendoci dentro veramente tutte le diavolerie possibili mediatiche, creando appunto una sorta di blob incredibilmente creativo, ed è uscito questo gioiello che è appunto Helter Stupid. Prima parte quindi di 451 dedicata alla traslazione disco, forse a come l'avanguardia può prendere la disco e, come diceva appunto prima Eliseo, decostruirla. Helter Skelter in versione disco, e quindi Helter Stupid da parte di Negative Land. Now! Can you comment on the connection that was made between your music and the axe murders last month in Rochester, Minnesota? Now it begins! Can you tell me, off the record, is there any backwards masking on the song Christianity is Stupid? Snake, everyone! Now! I can't get no satisfaction. You need sex, so we provided the girls. Sock it to me, baby. Sock it to me, baby. Sock it to me, baby. Sock it to me, baby. Sock it to me, baby. Give me what you got. And when it comes to killing you, and when it comes to killing you, and when it comes to killing you, and when it comes to killing you, and when it comes to killing you, and when it comes to killing you, and when it comes to killing you, and when it comes to killing you, and when it comes to killing you, and when it comes to killing you, and when it comes to killing you, they like to use every meme in the book. Kind of murder case that friends and neighbors said didn't make sense. They didn't understand. What am I saying? They didn't understand. What am I saying? They didn't understand. What am I saying? They didn't understand. Christianity is stupid. Sensationalism. A malicious tale about a maniac. Murder and music. You've given up looking. Murder and journalism music. Journalism or sensationalism. Enough typewriters. Murder journalism and music. Journalism or sensationalism. And enough time. Murder and journalism music. Journalism or sensationalism. And one of them will eventually come up with a King James version of the Bible. Murder and journalism music. Journalism or sensationalism. Your Bible. We don't have enough data. Your Bible. We don't have enough data. We don't have enough data. Your Bible. Data. We don't have enough data. We just don't have enough data. It's monkey business. And that's why I'm saying... Even a monkey could produce the King James Version of the Bible. Data. Data. Data. Too much data. He was not a homicidal maniac. He did not show any... Have mercy upon me, O Lord. Signs of wanting to hurt anyone. For I am in trouble. The crime is somehow related to a record by a Bay Area band. Hal Eisner has that story. Mine eye is consumed with grief. Many are still wondering why. Yea, my soul, my being. I can't get no satisfaction. Why me, Lord? You're overreacting. My strength faileth because of mine iniquity. You're overreacting. And my bones are consumed. Don't find excuses for it. The easiest thing to do is do what he did. Why, Lord? Apologize. I was forgotten. As a dead man out of mind. He apologized. I am like a broken vessel. But that's America. Why me, Lord? I'm considered a creep. And you're overreacting. Oh, wretched man that I am. A creep. Who shall deliver me from the body of this death? The creep. What? I'm going to have to cut it out, but we're overreacting. We'll be back after these messages. KTVU for Thursday, October 30th. Stereo version. Al's House of Meat, 2222 on the Sirloin Strip. Fine. We're going to play that back now. Did you hear that? What? Something on that tape when it ran backwards. What are you talking about? Run it down again. Now play it backwards. That child is a child of evil. I don't believe it. You never sounded so good. I'm serious. Play this backwards and you hear evil messages. Play the rest. We're going to play that one back. There it is again. Don't start. I mean it. Play it backwards. Last night he murdered his parents. Tonight his targets are his aunt and uncle. Doesn't it bother you that evil messages creep into our commercials when you play them backwards? Strange West. Play the rest. One or two of those may wander down all across the area. Too bad for the cause of good. Getting slightly milder, and we're continuing to be optimistic that the temperature actually inches above freezing by a degree or two this afternoon. And temperatures tomorrow will be similar, although there's a better chance for some snow to fall out of the clouds tomorrow, especially in the afternoon. Could be some melting of that snow on city streets, but maybe a covering to even an inch or two in the suburbs. That snow still coming our way, Dr. Joe Sobel? Yeah, it sure is, James. And there's some pretty good snows falling across parts of western Maryland into central Pennsylvania. Some places. It's really frightening, but at the same time, it's ridiculous. And then you got guys now that got the controls, but they don't have the power. You put somebody with the power at the control, and you watch the old buggy rock. With a quick end to the bizarre murder song, may be in doubt. And I'm not afraid of dying, because I don't believe in it. I think it's just getting out of one car and getting into another. Give up! Give up! You say the preacher. Christianity is stupid. Give up! Christianity is stupid. Christianity is stupid. Communism is good. Communism is good. Good, good, good, good, good, good, good. Get our brains through here. But they said there was something that got them more than the words of the song. Something that got them more than the words of the song. There was something that got them more than the words of the song. But they said there was something that got them more than the words of the song. And every boy and girl feels to be a hero, they gotta pull their clothes off. And it was the beat. The beat. Get over. And it was the beat. Just words. The beat. Just words. Words. Just words. Get over. And it was the beat. Beat. The beat. The beat. The beat. The beat. The beat. The probe apparently involved their stupid song, Christianity Didn't Make Sense. Let's play a game. Let's play a game. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Let's play a game. Let's play a game. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. We're taking our microphone to different locations. We don't have enough data. To different places. Your job is to close your eyes, listen very carefully, and decide where we are and what is happening. Okay? Okay? Okay. Attorneys say David and his parents frequently argued about religion and music. Okay, okay. We don't have enough data. Okay, okay. Christianity is stupid. Close your eyes. Christianity is stupid. Listen very carefully. Christianity is stupid. Close your eyes. Christianity is stupid. Okay, okay. Counter stupid. Counter stupid. Close your eyes. Counter stupid. Listen very carefully. Christianity is triggering the murder. Close your eyes. Christianity is thought-provoking. Listen very carefully. Even humorous. I think we don't accomplish anything by going on like this. This is the same thing you've been saying over and over again. Well, we're going to listen to those sounds again. We don't have enough data. This time, I'm going to ask you to do something besides just listening. I would like for you and your friends to pretend you're actually in the places you hear. Make believe that you're doing something. We don't have enough data. And while you're pretending and having fun, we don't have enough data. Too much data. Please ask yourself this question. And what will become of me? And what will become of me? We don't have enough data. Please ask yourself this question. A photocopy of a diagrammatic analysis of a report. Please ask yourself this question. Is God here? Is God here in this place doing this kind of thing? Now listen to this. L-E-O-N-A. Oh. And I'm with Channel 5 News. Well, I don't know. I'm calling regarding the group in this article that I'm looking at here. Okay, in my sure. Hand from hey, why you guys got a name sound something like Friday? That's right. Well, you're being stood up. ABW, huh? She said to tell you not to wait. But we would need no kind of cooperation from you or members of your group in order to do this. Wayne Walker, Joel Gorman, KPIX Eyewitness News, Nightcast is next. This isn't the first time someone has tried to blame a death on Hal Eisner. The Los Angeles couple claimed their son committed suicide while listening to an Hal Eisner story. The judge in that case ruled there was no proof that our report was responsible for the boy's death. I'm Hal Eisner. Journalism or sensationalism? And he's appealing. Too much data. We don't have enough data. We just don't have enough data. Data. Data. Data. Data. Data. We don't have enough data. Too much data. Too much data. Too much data. Too much data. Too much data. That's one of my big problems today. Books, files, photographs. Newsreels by the million miles. But I should think you'd be so glad to have all this material. But how to use it, dear lady? But how to use it? But how to use how it? How to use and it? Yet it goes on and on and on. Now I know too much and find it hard to make out any patterns. Just clatter and babble and get the feel and move on before I get buried in videotape. This record you're listening to now is another one. Hell, we're stupid. How do you go about getting an exorcism? Christianity is stupid. I can help. It's Richard Burton. Oh, no. He's a modest priest. Pray. Stupid. Have you tried praying? Stupid. And if you think going one-on-one with the Prince of Darkness is sticky, ooh, wait until you see the rest of the characters he has to contend with. Now there's a bizarre connection to a Bay Area band. Ladies and gentlemen. If you kill 8 or 10 people and you throw blood all over them, you say, now you see what I'm saying? They say, oh, we see what you're saying. And they still don't see what you're saying. Oh, ladies and gentlemen, in 3 or 4 years, American life as we know it will be over. Come on, man, it's a big act. Goddamn thing's a fucking act, man. What I said right then is a fucking act. Everything's an act. It's all an act. The only thing that's not an act, the only thing that makes reality is death. Then they hang it on a cross and kneel down and pray to it. That's the only reality they understand. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves. That is correct, correct, correct. Good night, and good luck. E finisce con questa assurda sirena, un pezzo... Stavo suonando, Max, stanno chiamando il Negative Land. Sì, con la loro follia creatrice, veramente un blob incredibile. Ci dispiace a questo punto veramente non conoscere l'inglese a dovere per anche spiegarvi che diavolo, magari qualcuno insomma dall'altra parte della stereofonia, della Geggio Radio ha capito insomma che diavolo di blobone stessero costruendo, se la prendono con la cristianità. Con i telepredicatori soprattutto americani, ma c'è anche insomma una sorta di telegiornale, ma sei un blobone sui media, proprio sui vari media, da radio, telegiornali, stacchetti TV, c'è veramente di tutto, di tutto di più. E poi questo loop disco famosissimo, celeberrimo pezzo della Disco Music, che creò una vera e propria moda anche in termini di ballo. E insomma il mondo di Negative Land, band storica californiana, che riprendeva tanto The Residents, ma sicuramente con un taglio più situazionista, se vogliamo, insomma più politico, ma nel senso della politica del linguaggio, quindi della decostruzione appunto in questo caso mediatica. Prima citavamo la bravata, si fa per dire, la grande operazione sugli U2, ne hanno fatte veramente varie, anche uno dei primi dischi senza musica, ma non nel senso che è vuoto, che è fatto praticamente con semplicemente degli errori che davano le macchine analogiche, quindi forse anche anticipando i glitch. Infatti un CD dove c'è scritto no music è stato creato appunto attraverso quelli che sono errori della stessa fruizione del CD come appunto supporto fonografico. E da Negative Land un altro approccio di quelli destrutturanti e assolutamente d'assalto sonico, quello di Mark Stewart. D'altronde insomma la derivazione è importante, c'è poco, fondamentalmente c'è poco e c'è molto, c'è tantissimo da raccontare su Mark Stewart. In primo luogo insomma la formazione che è stata fondante nella sua storia, e non solo nella sua storia, nella storia anche di molta musica sperimentale degli anni 70-80, è Pop Group, essendo uno dei fondatori di Pop Group, formazione assolutamente decisiva e seminale. E poi comunque lo stesso Mark Stewart ha continuato a sperimentare ininterrottamente, lavorando per anni anche dopo, diciamo, sia parallelamente che successivamente l'esperienza di Pop Group, perché ormai parliamo di una carriera musicale che insomma abbraccia ormai praticamente quasi 40 anni, ecco, tra poco, ecco, musicale, di produzioni infinite, perché 30 proprio intere, 30 intere, 30, saranno 35, 35 insomma circa. Dunque comunque una storia piuttosto importante. Dovuto Mark Stewart è anche passato a Bologna, l'abbiamo anche potuto gustare con la P38, con la P38 ma anche poi più di una volta, perché non è stato una volta soltanto negli ultimi anni, è passato anche al Fatidico Link, come Pop Group, anche come Mark Stewart, infatti. Dunque anche Bologna insomma è stata ben attraversata dal compagno Mark Stewart, lo possiamo dire, è anche molto vicino a noi come posizione. Vive l'autonomia, un pezzo infatti dell'ultimo disco, stupendo tra l'altro, insieme a Prima Scream. Tra l'altro sì, è molto legato a Bologna, per il suo trascorso insomma legato alla sinistra extraparlamentare. Non a caso quando è venuto a Bologna quest'estate insomma si è proprio sentito parte integrante di una storia. Anzi, rispondeva poco la platea, ecco, vedete? Quello è il problema, ecco, come al solito era molto platea. Vabbè, comunque il disco in questione che abbiamo pescato è un disco uscito nel 1987, uno splendido lavoro dove Mark Stewart decostruisce deframmenta, reincastra e rimodella, ne parlavamo prima proprio fuori onda, in maniera sicuramente vicina a William Burroughs, proprio come attitudine, come lavoro anche sulla costruzione sonora, praticamente ricostruendo passaggi musicali anche abbastanza importanti, autori ben conosciuti, da Billy Idol a Survival alle composizioni di un grande, di un genio come Erik Satie, per passare poi attraverso Sakamoto e Sylvian e arrivare al nostro grande amato, devo dire con molta onestà. Ultimamente parecchie trasmissioni lo citiamo, è vero, l'ultima volta, ma involontariamente che ci siamo passati anche attraverso un autore che poi abbiamo inserito proprio un brano che lui stesso ha rifatto in un'altra trasmissione. Parliamo, stiamo girando troppo intorno a Giorgio Moroder, che devo dire il primo a scoprire in termini di entusiasmo e di totale convinzione è stato il buon Max, e poi sono arrivato io, il buon Eliseo, successivamente. Tutti buoni, siamo buoni, no? Poi diventiamo cattivi però. E il brano che abbiamo selezionato è Fatal Attraction, che è uno splendido lavoro di Giorgio Moroder che continuiamo sempre a sostenere, non a caso autori come Stewart, ma anche Alan Licht ha ripreso proprio dei lavori di Giorgio Moroder, e ci sono molti sperimentatori che vedono Moroder come un punto di riferimento per il suo modo anche di sperimentare all'interno della disco, dell'Italo Disco, della disco music anni 70, inizio anche 80. Soprattutto un grande maestro per quanto riguarda il sequencer, senza di lui assolutamente, insomma, non ci sarebbe stata la techno, senza di lui chiaramente i Kraftwerk. Infatti, giusto ribadirlo. Andiamocela a sentire a questo punto un'altra versione di disco decostruita al massimo da Mark Stewart, disco dell'87, il brano appunto Fatal Attraction. Scoprite qual è il pezzo di Moroder che decostruisce. Bravo. Facciamo il quiz.

e siamo rientrati in voce, una cosa che non facciamo quasi mai, nel senso che parliamo sopra il brano, il prossimo brano che abbiamo mandato in onda. Abbiamo mixato questo splendido lavoro di Mark Stewart, 1987, Fatal Attraction. Mi stavo per impappinare, ma va bene così, una rielaborazione del grande Giorgio. Diamo un po' di confidenza, che dici, Max? Sì. E l'abbiamo mixato con l'altro pazzo che ultimamente spesso capita sulle frequenze di 451 Frammenti Sonori, Alan Licht, che avevamo già citato in precedenza. Uno splendido lavoro è New York Minute, uscito nel 2003, dove appunto in questo brano che sentite questa linea ossessiva che poi aprirà una sorta di decostruzione, ricostruzione molto ossessiva e spannata di un famosissimo brano di Blondie. Sì, fondamentalmente cosa fanno? Prendono il loop iniziale del pezzo famosissimo degli U, quello su Next, dedicato tra l'altro a Terry Riley, quindi c'è anche tutto un gioco intellettuale allucinante di Alan Licht. E poi tutto un tratto sentirete arrivare la bionda più bella d'America, ovvero Blondie, e con insomma una sorta anche di anticipazione di quello che può essere un disegno avanguardistico pre-Bastard Pop. Poi Bastard Pop è anche stata una cosa piuttosto innocua, in realtà qua c'era veramente anche un viaggio appunto anche piuttosto concettuale dietro al loop minimalista, poi che diventa, no? Certo. Appunto facendo una sorta di gioco di specchi con il pezzo che dedicavano gli U a Terry Riley, e poi la disco punk wave di Blondie che si inserisce, e tutto ovviamente viene in una maniera assolutamente traslata, una sorta anche qua di follia decostruita e decostruente anche il mondo musicale, forse oltre anche appunto i generi, in questo senso veramente assolutamente transgender. Ci andiamo? Bravo, infatti, che poi ritroveremo in un'altra cosa successivamente. Tra l'altro Radio Giornale, poi bravo, Radio Giornale, poi rientriamo, ripartiamo di nuovo la seconda parte con Disco No Disco. Vi ricordiamo anche, chiudiamo così, che potrete trovare le informazioni come sempre sul nostro blog 451frammentisonori.noblogs.org, che cura Lorenzo Albano. Lorenzo Albano, che salutiamo, che sicuramente ci sta male. No, hai ragione, che ci sta ascoltando. Sentiamo il delirio di Alan Licht e poi ci risentiamo la seconda parte. Bravo.